140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie e il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @ Marta Cagnola. Ecco i protagonisti dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Arcibellezza, Milano. Fine anni 80, inizio 90, i primi album di Elio e le Storie Tese. Li ripubblicano con un documentario in cui Mal interpreta il loro scopritore. Mi sembra giusto celebrarle con un mito, cioè Mal. Perché? Innanzitutto perché è mito. E poi perché in un universo parallelo è il produttore degli Elio e le Storie Tese, ai quali ha cambiato il nome addirittura e li ha portati, quelli là, diciamo quelli dell'universo parallelo, al successo. Dopotutto un uomo che si chiama Paul Bradley Cooling e ha trovato un nome d'arte geniale come Mal, non poteva non trovare un nome d'arte geniale anche per gli Eli? Beh sì, che se galesi. Sì. Come hai scelto yes. Mal? Ma la verità è che non mi ricordo, però io avevo un cugino in Gran Bretagna che si chiamava Malcolm. È un nome molto comune in Inghilterra e lui aveva un paio di anni più di me e io guardavo lui in alto perché lui suonava il basso con le band in Inghilterra prima che io ero ancora a scuola, quando lui già faceva successo. E lui si chiama Malcolm, un'abbreviazione di suo nome, Mal, e quando ho cominciato a cantare solo per hobby all'inizio ho rubato un pezzettino di suo nome e Mal. Così l'hanno imparato anche gli Eli, fantastico. Hai capito la storia della musica. Guarda che per dirla tutta, il nostro nome completo era Elio e le Storie Tese, quel gruppo di spiritosoni che cercano di fare delle canzoni simpatiche suonando anche bene. Com. E lui ha detto, accorciamolo un po' e facciamo Elio e le Storie Tese. Nel boschetto della mia fantasia c'è un fottio di animaletti un po' matti inventati da me, che mi fanno ridere quando sono triste, mi fanno ridere quando sono felice, mi fanno ridere quando sono medio, in pratica mi fanno ridere sempre. Quel fottio di animaletti inventati da me. C'è il vitello con i piedi di balsa, il vitello con i piedi di spugna, e indovina chi c'è? C'è pure il vitello coi piedi di cobalto. C'è il vitello coi piedi tonnati, quattro ne ho inventati, sono gli animali della mia e della tua fantasia. A proposito di nomi cambiati, io credo che esco dal mio corpo e ho molta paura, diventato nell'universo parallelo, entro nel tuo corpo e ho poca paura, sia forse anche meglio. Ah, dici? Beh, è meglio quello. Ma a me piace, esco dal mio corpo e ho molta paura perché mette l'ansia e io sono un fan dell'ansia. C'ho un sito anche, ansia.com, dove si parla di ansia e si crea ansia. Si coltiva l'ansia. A me piace, insomma, cosa vuoi farmi? Mi vuoi dare un pugno? No, siamo liberi, siamo in un paese libero, a me piace l'ansia, che cazzo. In ogni caso devo dire che l'altro titolo, che è più rassicurante, sì, può andare bene forse per il mainstream, ecco. Io sono contro anche il, sono per l'ansia e contro il mainstream. Posso aggiungere sì. Una cosa? È vero però che i due titoli sono strettamente legati, i più attenti se ne sono sicuramente accorti, perché esco dal mio corpo e ho molta paura, potrebbe essere anche una metafora della nascita. Entro nel tuo corpo e ho poca paura è una metafora di quello che prelude alla nascita. Il concepimento, esatto. Un po' il diavolo, cioè il diavolo entra nel tuo corpo e non ha paura. È vero. Quindi c'è anche del satanismo. C'è il satanismo. Le sette sataniche, che per la cronaca sono state contate, sono sette. Ditemi perché. Se la mucca fa mu, il merlo non fa me. La nostra vita è una sciarada, sulle prime sembra xix e invece zxix. Ditemi perché. cosa pensate quando riguardate quelle immagini che avete messo anche nei DVD di voi ragazzi? Eh beh, pensiamo come sarebbe stato bello arrivare a quel successo lì, al quale noi non siamo mai arrivati, perché purtroppo non abbiamo mai incontrato Mal, lo abbiamo incontrato solo adesso. Solo quando adesso abbiamo girato le immagini del DVD. No, ma quando rivedo quelle immagini a me viene un po' di nostalgia. Nostalgia dei tempi passati e della qualità. Perché diciamo che in quell'epoca magari si realizzavano i dischi con una cura certosina che forse oggi viene a mancare, e poi nostalgia. Forse anche il pH della pelle era un po' diverso. Eh sì, era più acido, questo è importante da dire. E poi mi ricordo, e lì la grande nostalgia, c'erano i preservativi che non si piegavano. Come quelli di oggi. Come le gambe della Barbie? Sì, una specie. Non mi ricordo che c'erano i presentativi che stavano su bene. Che quindi era un successo. Erano altri tempi. Ma non so perché. Dopo tutti questi anni avete capito perché se la mucca fa mu, il merlo non fa me? No. No, è un grosso mistero. È come la caduta dei capelli. Sì, sono lì lì per. È nato prima l'uovo o il tuorlo dell'uovo? No, come che dice? Prima l'uovo o il tuorlo dell'uovo? Ma Darwin stesso sarebbe stato in difficoltà, perché comunque quando capisci, quando approfondisci certe questioni sulla natura, puoi arrivare fino a un certo punto, ma non riesci mai a cogliere veramente l'essenza delle cose. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Elio e le storie tese. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.